Va ora in onda Lucciole nelle tenebre, da un'idea del presidio universitario Libera Bologna. Alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena, potete stare a casa. Benvenuti a un'altra puntata di Lucciole nelle tenebre, io sono Stefano. Ciao, io sono Flavia. Ciao, io sono Pietro. Oggi parliamo di... ma di che cosa parliamo, un attimo? Ste... come di cosa parliamo? Ma dovevi organizzarla tu. Ma io ho avuto esami, non ho studiato, non ho avuto tempo. Ma anch'io ho avuto esami, non ho avuto tempo per organizzarla. Vabbè, io se volete non ho avuto niente da fare. Però guardate, penso che possa interessare ai nostri ascoltatori sapere quello che ho fatto io oggi. Secondo me raccontare la mia giornata potrebbe essere interessante. Ci può salvare, non abbiamo niente di meglio? Non credo, no. Dai, vai. Vabbè, io parto subito. Aspetta, attenzione. Prima il pezzo. Che cosa lanciamo? Allora, io direi Alt J con Taro. Vai. I have sprayed you into my eyes. Allora, dopo questa nenia che vi abbiamo fatto ascoltare... Oh, aspetta un po', ora non rompere, non offendermi gli Jay. E mi racconti, bellissima, cosa hai fatto stamattina, su? Dai, cosa hai fatto? Allora, stamattina, come di consueto, mi sono alzato e sono andato a bermi il solito caffè. Il caffè della Peppina, ciò si spiega la mattina, né con latte né col tè. La Peppina fa il caffè. Bar sotto casa, non posso rinunciare. Quello sotto casa tua? Sì, quello sotto casa mia. Ma non sai che caffè servono in quel bar? No, non ho la più pallida idea. Praticamente leggevo, un po' di tempo fa leggevo un articolo di Saviano, no? E che parlava appunto dei vari prodotti in cui è mischiata la camorra. E dicevano che il caffè, quel tipo di caffè, il caffè sedio, è praticamente stato oggetto un'operazione della Guardia di Finanza nel 2011, che ha dimostrato che l'imposizione del caffè sedio era di tipo estorsivo, e praticamente si è dimostrato anche che c'era proprio un accordo fra i casalesi e il clan Mallardo che consentivano l'espansione degli interessi di questo clan in proprio con la distribuzione del caffè. Cioè, praticamente bevi un caffè che ogni volta che tu bevi quel caffè non fai altro che bere l'oggetto di un accordo camorristico. No, non pensavo di avere questa responsabilità, me ne dispiace, io andavo a bere il caffè e... Ma almeno avrai fatto lo scontrino, dai. Lo scontrino a volte me lo fa, quando c'è il bel tempo, ogni tanto... A volte... Pietro! Vi giuro che mi dispiace. Ma lo scontrino te lo dobbiamo fare sempre. Lo scontrino, infatti, è il modo per accertare un acquisto. È l'unico modo che lo Stato ha per accertare un acquisto, e tramite quello poi pagano le tasse e quindi entrano soldi all'interno dello Stato stesso. Pietro, è importantissimo. Perché caffè dopo caffè, direi che sì, ragazzi, l'evasione si accumula. Ma io, vabbè, lo chiederò più spesso, insomma. Vabbè, Pietro, adesso dai, però continua, perché... Vabbè, E dopo aver fatto colazione al bar illegale, cosa hai fatto, caro Pietro? Dopo, preso da estenuanti sensi di colpa, ho detto, vabbè, vado a mangiarmi una pagnotta di pane. E tra l'altro, non so se sapete, ma hanno aperto una specie di panetteria lungo la strada. Io vado sempre a mangiare il pane là, che tra l'altro è buonissimo e con prezzi ottimi. No, non mi fanno lo scontrino, però. No, Pietro, no, no. Cioè, Pietro, tu hai un talento naturale per comprare cose illegali. Una pagnotta di pane, per l'amor del cielo, cosa ha di male? Come? Cioè, tu non sai che praticamente i clan, quando non hanno niente di meglio da fare, si trasformano in panificatori? No. Praticamente hanno spesso forni clandestini che utilizzano per produrre tonnellate e tonnellate di pane, che vendono poi la mattina. Pane clandestino ed esentasse, perché chiaramente non ti sei nemmeno fatto fare lo scontrino, vero? Ma devo rispondere. Ecco, lo sapevo. È ovvio che non se l'è fatto fare. Adesso infieriamo. Sai con cosa alimentano quei forni? No, con la legna. La legna è leggermente costosa, quindi loro bruciano vecchie bare, infissi marci, tronchi di alberi e praticamente rifiuti speciali, e poi cuociono il buon pane che tu divori allegramente. Vabbè, allora diciamo che non andrò più a comprare il pane là. Però almeno, dai, almeno la spesa me la fate fare. Aspetta, cioè io... ma cosa hai messo in quel pane? Toglimi una curiosità. In quel pane cosa ho messo? Ma in genere mi faccio mettere due fettine di mozzarella, così mozzarella campana. Ah, mozzarella campana, che compri? Che dove compri? Ma quella la compro nei discount, nei supermercati normali, cioè costa un poco. Mozzarella campana DOP comprata nei discount, chiaramente. Insomma, uno sta attento anche alle proprie tasche, insomma, non è che posso... Ma non mi sembra così cattiva. Beh, non ti sembra così cattiva perché non sai come viene prodotta questa mozzarella di bufala. Per esempio, i casalesi importavano latte proveniente dall'est Europa, dove avevano allevamenti di bufale, mozzarelle romene che venivano vendute come quelle casertane. Successivamente, poi, hanno iniziato a importare a basso costo queste bufale, per infettarle poi con sangue marcio di brucellosi e guadagnare dall'abbattimento. Oh, poverine, se lo sa la Bisa che è fissata con le zoomafie. No, soprattutto adesso lo so io, quindi magari eviterò di comprare quelle mozzarelle. Certo che, insomma... Hai sentito che c'erano quelle blu qualche anno fa? No, ma insomma, basta con le brutte notizie, perché la mia giornata saranno abbastanza rotoli. Beh, continua però... Però devo dire che sei un talento naturale, no? Ma io davvero ci pensavo di fare cose normalissime. A quanto pare sto sbagliando tutto. Almeno hai mangiato un po' di buona frutta? Ma sì, vabbè, almeno la mia classica mela, la mia classica banana. Alla fine del pasto le mangio sempre. Dai, non ditemi che anche su di quelle avete qualcosa, perché a sto vabbè, punto... Vabbè, caro mio. Dipende. No, comunque ragazzi, no, una notizia buona, una notizia invece ve la devo dare io. Io, cioè, ho saputo che alla Lidl l'anno scorso facevano praticamente il traffico, il trasporto delle merci era gestito di fatto dal clan Ventrici e da Francesco Ventrici in particolare, che praticamente dopo una serie di estorsioni hanno praticamente convinto i dirigenti della Lidl ad affidare l'intero carico dei trasporti alla Cosca Calabrese. Quindi almeno l'anno scorso non sono andato a prendere la frutta alla Lidl, questo ve lo giuro. Vabbè, che la camorra faccia da tramite dall'Africa si sapeva. Cioè, non sai che praticamente non si può scaricare la merce se non c'è il se non si pagano i clan? Cioè, praticamente rimangono la frutta rimane nei container a marcire, a meno che chiaramente non paghi la quota dovuta. Vabbè, insomma, ragazzi, direi che siamo proprio alla frutta, per passatemi la battuta, ma a sto punto dai, lasciatemi una pausa nella mia giornata e sentiamoci un po' di buona musica. Che ci fai sentire? Ti faccio sentire Rosa di Brunori Sas. Devo dire che non sei un totale disastro allora. Grazie, grazie. Rosa, non piangere dai, anch'io mi voglio sposare, è che senza un lavoro non si tira a campare. Devo prendere il treno per andare a Milano, a Torino, a Bologna, insomma devo scappare. Che qui in Calabria non c'è niente, proprio niente da fare, c'è chi canta e chi conta e chi continua a pregare. San Francesco sopra il letto e sul cruscotto c'è la Madonna di Pompei, sopra la 126. Rosa, non ti preoccupare, non è mica la luna, vado a fare fortuna e poi ti torno a pigliare. E ti compro una casa, una macchina, un forno, poi ti porto anche al mare. Busta paga, contributi, documenti e codice fiscale, nonostante la nebbia non si sta poi così male. Il Sant'Ambrogio da Milano e sopra il Duomo c'è la Madonna di Pompei. A me mi pare proprio lei. Rosa, fra un anno si sposa, fra un anno si sposa con me. Rosa, fra un anno si sposa, fra un anno si sposa con me. Rosa, prepara il corredo, che ho trovato una casa, manca solo la sposa, la cucina e l'arredo. 188 cambiali, trattamento di favore, se lavoro 16 ore al giorno ce la posso fare. Tu pensa alle bomboniere e alla roba da mangiare, ed avverti pure il prezzo che ti porterò all'altare. Pace in terra, gloria in cielo, e sotto il velo c'è la Madonna di Pompei. Mi pare tale quale lei. Rosa, fra un mese si sposa, fra un mese si sposa con me. We'll be right back. Rosa mi guardi un po' strano, 15 ore di treno, sono appena tornato e non mi dici ti amo. Forse per via della mano, te l'avevo già detto, lavoravo alla morsa e per fare di corsa l'ho lasciata a Milano. E certo che ho perso il lavoro, sono invalido civile, non so manco che vuol dire, ma mi danno la pensione. Piuttosto dammi una spiegazione sulla partecipazione, ci deve essere un errore, già t'ho scritto un altro nome. E non il mio, e non il mio, e non il mio. Rosa, Rosa, Rosa, domani si sposa, vestita da sposa, non si sposa più con me. Rosa vestita la sposa, vestita la sposa, ma non si sposa più con me. Vabbè, insomma, la mia giornata sta praticamente andando a rotoli. Io almeno a cena, dai, lasciatemi una pizza, una buona e sana pizza, senza nessun criminale, senza un niente attimo, dietro. Un attimo, dove la prendi questa pizza? Ma la pizza, sai, una pizzeria che mi piace molto, in via Santo Stefano, la pizzeria Regina Margherita, non so se sei presente. Ho presente che non sei proprio una persona, come dire, che ci afferra lì, ci coco, gli sempre diciamo nel punto. Fantastico Pietro, sei fantastico, ti vogliamo bene per questo. Grazie, guarda. Tecnico. Ma stretto. Tu non hai idea di quello che è successo lì dentro. Mio Dio, cosa ho fatto di male ancora una volta? Qualche tempo fa la pizzeria in questione è stata sottoposta al sequestro preventivo da parte della direzione distrettuale antimafia di Napoli. Praticamente la pizzeria Regina Margherita è stata indagata per riciclaggio di denaro sporco insieme ad altre catene di pub e ristoranti, e in cui tra l'altro venne come dire, coinvolto anche il caro Cannavaro. No, Fabio. Beh, no, non toccatevi, Fabio. No, non toccatevi Fabio Cannavaro, dai, sono Juventini, vi prego. No, anche lui. Cioè, ci sarà capitato in questa storia, non so che dirti, però sta di fatto, ragazzi, che c'era pure lui lì in mezzo. Praticamente la pizzeria, dopo essere stata posta sotto sequestro, è andata alla gestione esterna di soggetti diversi dai vecchi amministratori. Perché comunque tra prestanomi, riciclaggio, non si sapeva più cosa stesse succedendo. Comunque è stata una storia bella tosta, caro mio, il mio Pietro. Cambia pizzeria. Cara la mia Flavia, io mi sa che devo cambiare paese, perché a questo punto non si può mangiare in santa pace. Oppure puoi fare una scelta consapevole. Cioè, te lo diciamo noi un posto dove mangiare in maniera legale? Cioè, ditemelo, perché ho passato una giornata d'inferno. Secondo voi mi sentivo felicissima. Adesso sono depresso. Chissà cosa è successo al tuo povero stomaco. Oh mio Dio, non dirmi queste cose. Beh, per esempio potresti venire da noi ai nostri aperitivi di Libera Terra. Come funzionano gli aperitivi? Libera Terra è questa campagna che Libera ha lanciato nella produzione sui beni confiscati di materiali, cibi sani, legali. Sì, sani, legali, non, senza sfruttamento dietro, senza riutilizzo di queste storie orrende che hai sentito. Insomma, sai quel che mangi e dai una mano a Libera. No, ed è anche buono. Sarebbe stupendo, no? Ma... E poi ti assicuro che i taralli di Libera con un buon bicchiere di vino siciliano sono qualcosa che non ti immagini. Ma infatti ho visto che tra l'altro sui banchi della Coppa è pieno di prodotti di Libera Terra. Sì, li trovi anche al supermercato, vedi un po'. È fantastico, allora basta, abolirò tutti gli altri prodotti e mi dedicherò solo ai prodotti di Libera Terra. No, vabbè, insomma, per concludere questa puntata in cui io ho, diciamo, fatto da... Sei passato per persona brillante. Per persona molto intelligente, ho fatto da cavia nell'esperimentare tutti i prodotti più nocivi del mondo, quindi il mio stomaco è un attimo in subbuglio. Però fondamentalmente abbiamo cercato di dimostrarvi come quando si va a fare la spesa non sempre sappiamo quello che prendiamo, non sempre sappiamo quello che mangiamo e tante volte, oltre a mettere a rischio il nostro stesso organismo, finanziamo pure una un sistema, la criminalità sbagliato. Organizzata, un sistema sbagliato. È che molte imprese non, cioè, per pur di essere competitivi, abbassano a tal punto la qualità che il prodotto non è più quello che realmente ci propinano. Cioè, non stai andando a mangiare una mozzarella, non stai mangiando del buon pane, cioè non si sa più nemmeno cosa hai davanti. Cioè, è un problema che non è solo riguardante alle associazioni che sono in concorso esterno con associazioni mafiose, sono problemi di imprenditoria generale e che mettono a rischio pure la nostra salute. Bene, abbiamo parlato di cosa consumare, come consumarlo e dove consumarlo, ma adesso ci vogliamo prendere la parte finale della puntata per fare un po' di sana propaganda assolutamente referenziale, e quindi lascio la parola a Stefano che vi elencherà le nostre numerose attività del Presidio Universitario di Libera Bologna, che vi ricordo è l'autore di queste bellissime puntate che seguite in tantissimi. Prego Stefano. Guardate, noi di Libera vi diamo un consiglio di venire con noi il 16 marzo dalle ore 6 a Firenze per la nostra manifestazione nazionale. Sì, cioè accorrete numerosi perché sarà davvero una figata, saremo in tantissime da tutte le parti d'Italia. Il costo dei pullman è fino ai 25 anni di 10 euro e oltre 25 15. Per maggiori informazioni telefonate allo 051 22 83 90. Venire con Libera non dà controindicazioni ma può provocare assuefazione. A questo proposito avrei un consiglio da darvi anch'io. Appuntamento del nostro Cineforum. Mercoledì 6 marzo. Alle 20 in piazza Scaraviglie, all'area 3 di economia. E proietteremo... L'uomo di vetro. Beh, adesso sono veramente giunte l'ora dei saluti. Vi ringraziamo qui in studio Pietro, Flavia e Stefano. E vi lasciamo con un gran pezzone. Esci piano dei Bud Spencer Blues Explosion. Woo! Ciao! Ciao! Bye.